mio, una cosa un po' scema. Perché mi ritrovavo intrappolata nella scena. Per questo ti chiedo se un po' ti faccio pena. Se davvero mi vuoi bene, fammi uscire dalla scena. Fammi uscire dalla scena. Calcutta, dei giornalisti, Calcutta, dei giornalisti.